Siamo in collegamento telefonico con Michela, la chitarrista delle Birrette, che salutiamo. Ciao Michela. Ciao, ciao a tutti. Ciao. E le Birrette sono una band tutta al femminile, nata qui a Bologna, quindi Michela ti chiederei innanzitutto se hai voglia di raccontarci di questo progetto. Sì, allora noi siamo nate nel 2014 da un'idea della cantante Anna. E lei insomma ha cantato in altri gruppi bolognesi per un po', poi ha deciso di fondare un gruppo e sempre la sua idea è stata quella di fondare un gruppo femminile di questo genere, appunto rocksteady, sta diciamo delle origini e quindi abbiamo fondato questo gruppo nel 2014. Siamo conosciute principalmente, io l'ho conosciuta alle serate dei Calibro 7 Pollici al VAG e poi lei ha messo un po' di gente insieme che conosceva e siamo partite insomma dal primo nucleo che poi mano a mano si è ampliato, abbiamo trovato sempre più strumenti, fiati, cori eccetera e abbiamo anche cambiato alcuni membri diciamo nel corso degli anni. Adesso ci siamo stabilizzate da un po' di tempo e niente, quindi cioè, il progetto diciamo nasce con l'idea di fare musica in maniera spensierata e cercando appunto con un gruppo, cioè, essendo che siamo appunto solo donne, anche di sdoganare un po' il fatto che questo genere potesse anche essere suonato da strumentiste donne, ecco. E noi infatti vi abbiamo chiamato anche perché siete un gruppo tutto al femminile e purtroppo questa rappresenta forse anche un po' un'eccezione all'interno dello scenario musicale, nel senso che comunque è un campo diciamo che non è escluso dalla società patriarcale in cui viviamo, quindi io volevo chiederti come riuscite diciamo a vivere all'interno di questa società in questo modo? Ma allora, diciamo che una volta creato il gruppo ci si sente forti, cioè nel senso che poi a quel punto magari ecco all'inizio c'era un po' più di scetticismo nei nostri confronti, come nei confronti di tutti i gruppi femminili in cui ci si chiede appunto ma saranno brave, non saranno brave, appunto per questi pregiudizi. Quest'idea, no? Non lo so, che le donne siano sempre un po' meno brave a fare le cose. Però diciamo che noi una volta partite abbiamo trovato un'ottima accoglienza, quindi appunto una volta fondato il gruppo, cioè, diciamo, la difficoltà è stata proprio fondare cose su base diciamo femminile, però poi dopo almeno noi abbiamo trovato una buona accoglienza. Certo. Molte persone si sono dimostrate entusiaste, ecco. Questa scelta anche di creare una band tutta al femminile può essere interpretata anche come una sorta di idea politica alle spalle, appunto quella di scegliere un complesso di sole ragazze? Allora sì, cioè nel senso, il paradosso di questo è che basta creare appunto un gruppo femminile cioè questa dovrebbe essere la normalità, no? Cioè il fatto, certo, che invece basta questo per darsi diciamo anche una linea politica, cioè femminista sostanzialmente. Quindi quello che dovrebbe essere la base diventa cioè appunto un'eccezione, una cosa in più, un esempio, però appunto questo in realtà dovrebbe essere il minimo da cui partire. Cioè noi, come dire, il sogno sarebbe arrivare in una società in cui nessuno ti chiede più perché siete un gruppo di sole donne, certo, o avete scelto, appunto ritenerlo la normalità in cui ci sono gruppi femminili, gruppi maschili, gruppi misti e nessuno si dovrebbe. Questo è l'intento, diciamo, più che altro che noi vediamo come nostra diciamo linea politica femminista, cioè come dire la pura esistenza diventa appunto un atto in qualche modo politico. Questo è assurdo, però appunto da questo si comincia per poi arrivare, come ti dicevo, a un ideale, cioè diamo il nostro contributo appunto in vista di quel sogno sociale, cioè del non chiedersi più perché esiste esiste un gruppo di storie donne, ma darlo per scontato, no? Come la cosa più normale del mondo. È uscito un pezzo che si chiama Wounded Man, che parla, diciamo, comunque denuncia la violenza di genere. Ci vuoi parlare un po' di più su questa tematica e sul pezzo? Sì, allora, il pezzo, appunto, come dici tu, parla di quello, parla comunque di una donna che, come dire, è stufa un po' di subire, non un po', cioè è stufa, è stanca e dice, cioè, come dire, ritrova una forza dentro di sé e dice, cioè, come dire, la prossima volta che verrai a cercarmi sarai tu l'uomo ferito, no? Come sì, una sorta di ripresa di forza. In cui allora questo testo e anche il video, non so se l'hai visto, appunto, anche non voglio usare la parola provocazione perché forse, cioè, insomma, non passa bene il significato di quello che abbiamo cercato di fare, però è in qualche modo, appunto, sia nella canzone che nel video, la donna se la deve vedere da sola, no? Come dire, per difendersi e anche, diciamo, tra virgolette, per punire quello che l'ha ferita, no? Sì. E che le ha usato violenza, e questo ovviamente non dovrebbe succedere in un mondo normale, cioè in un mondo normale i carabinieri dovrebbero crederti, una donna dovrebbe appunto non essere messa sotto processo lei quando denuncia uno stupro, però spesso vediamo che non è così, purtroppo nella nostra società diciamo i casi di stupro, cioè le donne spesso hanno anche paura di denunciare perché appunto c'è gente che ha denunciato e non è servita a niente, c'è gente che non è stata creduta, c'è gente che è stata messa sotto processo per i suoi comportamenti quando appunto sappiamo è lei ad aver subito, è stata, cioè era lei la persona ad aver subito la violenza, e quindi questo appunto vorrebbe aprire una riflessione, in realtà la riflessione è già stata aperta da tempo, vorrebbe portare appunto una visione, cioè come dire, se io ti presento un testo in cui ti dico che mi vendico e che mi difendo da sola, cioè non è un augurio, certo, però è come dire una conseguenza, no, di quello che succede, se le donne dal momento in cui si rivolgono, cioè le donne che hanno subito violenza, dal momento in cui si rivolgono alle forze dell'ordine e alla giustizia, non vengono credute, non vengono ascoltate e diciamo i loro stupratori invece vengono spesso assolti o come dire non neanche troppo stigmatizzati, no, poi dall'opinione pubblica, certo. Allora insomma, poi una quando si ritrova da sola con se stessa, con diciamo le sue reti tra virgolette personali di sicurezza, se ha la fortuna di averne, arriva anche alla decisione di vedersela da sola, come d'altronde è successo, perché comunque ci sono casi, appunto ci ricordiamo di casi in cui le donne poi sono arrivate ad uccidere i loro violentatori, stupratori, insomma abusatori, ecco. Sì. Ed è questa, è una cosa che cioè una donna non dovrebbe essere lasciata sola in questo modo e dire ah me la vedo da sola, però purtroppo questo è che, cioè, come dire, ha mali estremi rimedi, non so se ecco. No, ma non è però una giustificazione della violenza nell'altro senso, ecco, questo vorrei che fosse chiaro. Cioè, è un atto di legittima difesa, ecco, mettiamola così, in certi casi non può evitarlo. Chiedo se state lavorando a qualche nuovo progetto in questo periodo, anche comunque venendo da un periodo invece pandemico in cui forse un po' la musica si è fermata, però so che comunque per artisti e artisti, per alcuni ha rappresentato un momento un po' più creativo, per altri invece ha rappresentato un ostacolo. Voi come state vivendo questo momento e ci sono programmi per il futuro? Allora, sì, come dici tu, appunto la pandemia è stato un ostacolo insormontabile ai live, quindi ovviamente, cioè, tutti i gruppi hanno smesso di fare live, di viaggiare, di portare la loro musica in giro, però appunto noi, diciamo, abbiamo colto l'occasione per dedicarci alla scrittura di nuovi pezzi alle nuove cover, a buttar giù le nuove cover, in modo che quando si tornerà a suonare avremo una scaletta abbastanza nuova e pezzi originali che con cui noi abbiamo intenzione di fare un secondo album o dei singoli. Adesso dobbiamo ancora decidere cioè prima o poi registreremo sicuramente quello che stiamo producendo in questo periodo. Non sappiamo ancora se queste registrazioni poi usciranno in forma di disco unico oppure in 45 giri, insomma in singoli, che sarebbero anche il formato di vocazione di questa musica, il formato con cui è stata pubblicata originariamente, no? I pezzi giamaicani comunque è raro che uscissero degli LP, era molto più frequente che uscissero dei 45, quindi anche noi abbiamo pensato che potremmo tornare al singolo, però insomma adesso vediamo. Comunque stiamo producendo appunto pezzi nostri e presto, insomma, in qualche modo alla fine di questo periodo di stop troveremo modo di farveli arrivare, insomma, o in un formato o nell'altro. Va bene Michela, io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi al telefono e aver parlato un po', e speriamo di vederci presto sotto un palco per venirvi a sentire in concerto, e ti chiedo di salutare tutte le altre birrette, e quindi ancora grazie. Sarà fatto. Grazie mille a te, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.